suggerisse di mostrarsi so ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Messomi in tasca il biglietto della signorina Havisham quale credenziale, nel caso che il suo temperamento bizzarro le suggerisse di mostrarsi sorpresa di rivedermi così presto, il mattino dopo mi recai di nuovo da lei in diligenza, ma scesi alla stazione di posta a metà strada, dove feci la prima colazione, e percorsi a piedi il resto della strada, perché intendevo entrare in città senza esser visto, per vie non frequentate, e lasciarla allo stesso modo. Era pomeriggio inoltrato quando passai per le tranquille aie dietro la strada principale. Le costruzioni in rovina, dove i vecchi monaci avevano avuto un tempo il loro refettorio e il loro giardino, e le cui solide mura servivano ora da umili tettoie e stalle, erano quasi altrettanto silenziose dei vecchi monaci, nelle loro tombe. I rintocchi della cattedrale, mentre mi affrettavo per evitare di essere visto, risuonarono più tristi e più lontani di quanto non avessero mai fatto, e le note del vecchio organo giunsero al mio orecchio con un che di funereo. Perfino le cornacchie che volteggiavano attorno alla grigia torre o si dondolavano sugli alti alberi nudi del giardino del priorato parevano gridarmi che il luogo era mutato ed Estella se n'era andata per sempre. Una donna anziana, una delle domestiche che abitavano nella casetta al di là del cortile, mi aprì il cancello. Una candela accesa era posata, come di consueto, nell'oscuro corridoio. La presi e salii da solo al piano di sopra. La signorina Havisham non era nella sua stanza, ma in quella più grande, sul lato opposto del pianerottolo. Dalla soglia, dopo aver bussato invano, la vidi seduta accanto al focolare, in una poltrona sbrindellata, ben vicina al fuoco quasi spento, persa nella sua contemplazione. Come avevo spesso fatto, entrai e rimasi in piedi accanto al vecchio camino, dove ella avrebbe potuto scorgermi quando avesse alzato gli occhi. Vi era qualcosa di così indicibilmente malinconico in lei, che mi avrebbe mosso a compassione anche se ella mi avesse fatto volontariamente un torto più grave di quello di cui la incolpavo. Me ne stavo lì, compassionandola, pensando come col tempo fossi divenuto io pure partecipe del triste destino di quella casa, finché i suoi occhi si posarono su di me. Mi guardò fisso e disse con voce sommessa: «È possibile?» «Sono io, Pip! Il signor Jaggers mi ha dato ieri il vostro biglietto e non ho perso tempo.» «Grazie, grazie!» Mentre avvicinavo al focolare un'altra di quelle misere poltrone per sedermi, notai una nuova espressione sul suo volto, come se ella avesse paura di me. «Vorrei», disse, «continuare il discorso cui hai accennato l'ultima volta che sei stato qui, per mostrarti che non sono tutta di pietra. Ma forse tu non potrai mai credere ormai che vi sia qualcosa di umano nel mio cuore.» Dopo che le ebbi detto alcune parole per rassicurarla, ella tese una mano tremula verso di me, come se volesse toccarmi, ma la ritirò prima che io avessi capito il gesto o sapessi come accoglierlo. «Hai detto, parlando del tuo amico, che avrei potuto fare per lui qualcosa di utile e di generoso, qualcosa che tu desidereresti molto che io facessi, vero?» «Una cosa alla quale terrei molto.» «Cos'è?» Cominciai a spiegarle la storia segreta della società di Herbert. «Bene», ella disse assentendo ma senza guardarmi, «e quanto denaro è necessario per portare a termine la cosa?» Ero piuttosto spaventato nell'enunciare la cifra, poiché si trattava di una grossa somma. 900 sterline. «Se io ti do il denaro per quello scopo, terrai il mio segreto come hai tenuto il tuo?» «Con altrettanta fedeltà.» «E il tuo animo sarà più tranquillo?» «Molto più tranquillo.» «Sei molto infelice ora?» fece questa domanda sempre senza guardarmi, ma con un'insolita intonazione di simpatia. Non potei rispondere subito perché la voce mi mancò. Ella appoggiò il braccio sul pomo del bastone e posò dolcemente la fronte su di esso. «Sono ben lungi dall'essere felice, signorina Avisham, ma ho altre ragioni di preoccupazione, oltre quelle che conoscete. Sono i segreti a cui ho accennato». Dopo un poco ella alzò il capo e guardò di nuovo il fuoco. «È nobile da parte tua di dirmi che hai altre ragioni di infelicità. È proprio vero?» «Fin troppo». «Posso esserti utile, Pip, solo essendo utile al tuo amico? Considerando questa cosa come fatta, non c'è altro che posso fare per te, personalmente?» «Nulla. Vi ringrazio per avermelo chiesto. Vi ringrazio ancora di più per il tono della domanda. Ma non vi è nulla». S'alzò dalla poltrona e si guardò attorno nella camera desolata, cercando l'occorrente per scrivere. Ma non c'era. Allora si tolse di tasca un note fatto di tavolette d'avorio ingiallito, montate in oro opaco, e scrisse su di esse con una matita contenuta in un astuccio di oro opaco che teneva appeso al collo. «Sei sempre in buoni rapporti con il signor Jaggers?» «Sì, ho pranzato ieri sera con lui». «Questa è un'autorizzazione per il signor Jaggers a pagarti quella somma, metterla a tua completa disposizione per il tuo amico. Qui non tengo denaro, ma se tu preferisci che il signor Jaggers rimanga all'oscuro della cosa, te la manderò». «Grazie, signorina, non ho nulla in contrario a riceverlo da lui». Mi lesse quanto aveva scritto in termini chiari e precisi, miranti evidentemente a eliminare qualsiasi sospetto che io avrei approfittato di quel denaro. Presi le tavolette dalla sua mano, che di nuovo tremò. E più ancora tremò quando ella si tolse la catena a cui era attaccata la matita e la mise nella mia mano. Aveva fatto tutto questo senza guardarmi. «Il mio nome è sul primo foglietto. Se potrai mai scrivere sotto il mio nome, la perdono. Sia pure molto tempo dopo che il mio cuore spezzato sarà divenuto polvere, fallo, te ne prego». «Oh, signorina», dissi, «lo posso fare subito. Vi sono stati tanti sbagli dolorosi e nella mia esistenza sono stato cieco, ingrato, ed ho troppo bisogno di indulgenza e di consigli per essere duro con voi». Volse il viso verso di me per la prima volta da quando lo aveva distolto. E con mia sorpresa, potrei aggiungere con mio terrore, cadde in ginocchio ai miei piedi, le mani giunte verso di me nell'atteggiamento in cui, quando il suo povero cuore era giovane, inesperto e intatto, aveva dovuto rivolgersi al cielo accanto a sua madre. Vederla inginocchiata ai miei piedi, con quelle chiome bianche e il viso consunto, destò in me una commozione violenta. La supplicai di rialzarsi. La cinsi con le mie braccia per aiutarla, ma ella non faceva che baciare quella delle mie mani che le riuscisse di afferrare, e chinava il capo su di essa e piangeva. Non le avevo mai visto versare una lacrima, e nella speranza che lo sfogo potesse farle bene, mi chinai su di lei senza parlarle. Ora non era più inginocchiata, ma a terra. «Oh!» gridò disperata. «Che ho fatto?» «Signorina, se volete parlare del male che mi avete fatto, lasciate che ve lo dica. È stato molto poco. L'avrei amata in ogni caso». «È sposata?» «Sì». Era una domanda oziosa, perché una nuova desolazione in quella casa desolata me lo aveva fatto capire. Thank you. ho fatto? Si torceva le mani, si scompigliava i capelli, tornando ogni tanto al suo grido. Non sapevo come rispondere, né come consolarla. Che ella avesse fatto una cosa orrenda nell'aver modellato una bimba impressionabile, nella forma da cui il suo selvaggio rancore, il suo sentimento disprezzato, il suo orgoglio traevano vendetta, lo sapevo bene. Ma che nell'escludere la luce del sole, e l'avesse escluso infinitamente di più, che nella sua reclusione la si fosse privata di mille influenze naturali e salutari, che la sua mente, rimuginando in solitudine, si fosse ammalata, come è inevitabile per tutte le menti che invertono l'ordine designato dal loro creatore, lo sapevo altrettanto bene. Eppure, come potevo non avere pietà di lei, scorgendo la sua punizione nella rovina che ella era diventata, nella sua profonda incapacità a vivere sulla terra, dove era sua sorte di vivere, nella vanità di questo suo dolore divenuto una vera mania, come pure nella vanità del pentimento, del rimorso, della indegnità e di tante altre mostruose vanità che affliggono questo nostro mondo. Finché tu non le parlasti quel giorno e finché io non vidi in te come in uno specchio ciò che io stessa avevo provato un tempo, non sapevo quello che avevo fatto. E così di nuovo 20, 30, 50 volte. Che ho fatto? Signorina Havisham, disse quando il suo grido si spense, potete scacciarmi dalla vostra mente e dalla vostra coscienza. Ma Estella è un'altra cosa. E semmai potrete disfare un poco del male che le avete fatto nel mortificare una parte della sua vera natura. Sarà meglio far quello piuttosto che rimpiangere il passato. Sì, sì, lo so, ma Pip, mio caro... V'era una compassione sincera e femminile nel suo nuovo affetto. Mio caro, credimi, quando è venuta a stare con me, pensavo di evitarle un'infelicità simile alla mia. In principio, non miravo ad altro. Beh, dissi, lo spero. Ma quando crescendo promise di diventare molto bella, a poco feci di peggio, e con le mie lodi, con i miei gioielli, con i miei insegnamenti, e con questo mio viso sempre dinanzi a lei, quale monito, che comprovava le mie lezioni, le ho rubato il cuore, e al suo posto ho messo del ghiaccio. Sarebbe stato meglio. Non potei fare a meno di dirle, lasciarle un cuore normale, anche se avesse dovuto essere ferito o spezzato. A queste mie parole la signorina Havisham mi gettò uno sguardo alterato e poi ricominciò a gridare. Se tu sapessi tutta la mia storia, disse per giustificarsi, avresti per me un po' di pietà e maggiore comprensione. Signorina, risposi con tutta la delicatezza possibile, credo di poter dire che conosco la vostra storia da quando lasciai per la prima volta questo paese. Essa mi ha ispirato una grande compassione e credo di capirla e di capirne gli effetti. Ciò che è stato fra noi mi autorizza a rivolgervi una domanda riguardo a Estella. Era seduta per terra, le braccia sulla poltrona sbrindellata e la testa appoggiata su di esse. Mi guardò bene in viso quando le dissi questo e rispose: «Continua!» «Di chi era figlia Estella?» Scrollò il capo. «Non lo sapete!» Di nuovo scrollò il capo. «Ma il signor Jaggers la portò qui egli stesso o la mandò?» «La portò egli stesso!» «Volete dirmi come avvenne?» rispose a voce bassa e con circospezione. Ero chiusa in queste stanze da molto tempo. Non so da quanto. Tu sai l'ora che segnano gli orologi qui. Quando gli dissi che volevo una bambina da allevare e amare e alla quale evitare il mio destino, mi disse che avrebbe cercato un'orfana. E una sera me la portò qui, addormentata. E io la chiamai Estella. Che età poteva avere allora? 2 o 3 anni. Estella sa soltanto di essere orfana e che io l'adottai. Che altro avrei potuto sperare, prolungando quel colloquio? Ero riuscito a ottenere quanto volevo per Herbert. La signorina Havisham mi aveva detto tutto quanto sapeva di Estella. Io avevo detto e fatto quanto potevo per confortarla. Poco importa con quali altre parole ci separammo. Ci separammo. Calava la sera quando uscì all'aria aperta. Dissi alla donna che mi aveva aperto il cancello che non si disturbasse per ora, poiché avrei fatto un giro per il giardino prima di andarmene. Avevo il presentimento che non sarei mai più tornato in quel luogo e sentivo che la luce calante si addiceva ad un'ultima visita. Mi recai nel giardino desolato. Lo percorsi tutto. L'angolo dove Herbert ed io ci eravamo azzuffati, i sentieri che Estella ed io avevamo percorso insieme. Tutto era così freddo, così solitario, così lugubre. Tornando indietro dalla parte della birreria, sollevai il chiavistello arrugginito di una porticina all'estremità del giardino e passai oltre. Stavo per uscire dalla porta opposta, ora non facile da aprire, poiché il legno umido si era gonfiato, i cardini cedevano e la soglia era ingombra di una vegetazione di funghi, quando girai il capo guardando indietro. Un ricordo infantile rivisse con forza sorprendente nell'attimo in cui feci questo breve gesto e mi parve di vedere la signorina Havisham penzolare da una trave. L'impressione fu così forte che rimasi sotto quella trave tremante dalla testa ai piedi, prima di rendermi conto che era un'allucinazione. La tristezza del luogo e dell'ora e il terrore ispiratomi da questa allucinazione, per quanto fuggevole, fecero sì che quando uscii oltre i cancelli di legno e mi trovai nel luogo dove una volta mi ero strappato i capelli, dopo che Estella mi aveva strappato il cuore, provai un profondo senso di angoscia. Passando per il cortile sul fronte esitai se chiamare la donna per farmi aprire il cancello o prima salire per assicurarmi che la signorina Havisham era sana e salva, come l'avevo lasciata. Scelsi quest'ultimo partito e salii. Nella stanza dove l'avevo lasciata, la vidi seduta nella sdrucita poltrona accanto al fuoco, volgendomi le spalle. Ma proprio nell'istante in cui stavo per ritrarmi e andarmene zitto zitto, si levò una gran fiammata, ed ella corse verso di me urlando, avvolta da un turbine di fuoco che si levava alto, al di sopra della sua testa. Indossavo un pastrano a pellegrina, e sul braccio avevo un altro pastrano pesante. Come li avviluppassi intorno a lei, come la buttassi a terra e la ricoprissi poi con essi, come del medesimo intento strappassi la tovaglia dalla tavola, trascinando giù in tal modo anche il mucchio di robaccia che vi era sopra, scoprendo il putridume che vi si annidava, come io lottassi con lei per terra, quasi fossimo nemici implacabili, e quanto più la ricoprivo strettamente, tanto più selvaggiamente, e la gridasse e cercasse di liberarsi, come tutto ciò accadesse, io venni a saperlo solo in seguito. Ma non per ciò che io stesso sentii o pensai o mi resi conto di fare. Non capii più nulla finché non mi ritrovai con lei sul pavimento, accanto al grande tavolo, mentre pezzi di stoffa bruciata, ancora accesi, che un momento prima appartenevano alla sua veste nuziale, ora distrutta, volteggiavano nell'aria fumosa. Allora mi guardai attorno e vidi gli scarafaggi e i ragni che fuggivano per il pavimento e le domestiche che accorrevano urlando. La tenevo giù energicamente con tutte le mie forze, come un prigioniero che tenti di fuggire, e dubito perfino di aver saputo chi lei fosse, o perché avessimo lottato, o che ella era stata avvolta dalle fiamme e che queste erano ormai spente, finché non vidi i brandelli di stoffa bruciata che ricadevano in una pioggia nera attorno a noi. La signorina Havisham era priva di conoscenza. Non permisi che la rimuovessero anche solo che la toccassero. fu mandato a chiamare un medico. E io continuai a tenerla finché egli non giunse. Come se scioccamente mi immaginassi, credo di averlo immaginato sul serio, che se la lasciavo andare, il fuoco sarebbe divampato di nuovo. Quando mi rialzai all'entrare del medico, con altri soccorritori, mi stupii al vedere che avevo le mani scottate, poiché non ne avevo affatto avuto la sensazione. Dopo averla esaminata, il medico constatò che la signorina Havisham aveva riportato delle ustioni gravi, ma di per sé non gravissime. Il pericolo consisteva soprattutto nella scossa nervosa. Per suo ordine, il letto della signorina fu portato in quella stanza e messo sopra la tavola, il che si rivelò comodo anche per le medicazioni delle ferite. La rividi un'ora dopo. Giaceva proprio nel punto in cui l'avevo vista picchiare col suo bastoncino, dicendo che un giorno vi sarebbe stata stesa. Sebbene il suo abito da sposa fosse completamente bruciato, come mi raccontarono, ella conservava ancora un che del suo aspetto spettrale, poiché era stata ricoperta sino al collo di ovatta ed era stesa sotto un lenzuolo bianco. L'aspetto spettrale di qualcosa che è stato e non è più. Interrogando le domestiche, venne a sapere che Stella era a Parigi e ottenne dal medico la promessa che gliele avrebbe scritto immediatamente. Mi assunsi io l'incarico di avvertire la famiglia della signorina Havisham, ma intendevo mettermi in comunicazione soltanto con Matthew Pocket e lasciare che egli decidesse a suo piacere se informare o no gli altri. Me ne occupai subito, il giorno dopo, non appena rientrato in città per tramite di Herbert. Ci fu un momento quella sera stessa in cui la signorina parlò sensatamente di quanto era accaduto, seppure con una vivacità eccessiva. Ma verso mezzanotte cominciò a divagare e poi a poco a ripetere innumerevoli volte, a voce bassa e in tono solenne: «Che ho fatto?» E poi, quando arrivò, volevo salvarla da una infelicità come la mia. E poi: «Prendi la penna e scrivi sotto il mio nome: la perdono», senza mai cambiare l'ordine di queste frasi. Talvolta ometteva una parola, ma non aggiungeva mai nulla. Lasciava una lacuna e passava alle parole seguenti. Poiché non potevo esserle di nessun aiuto lì, e avevo invece a casa urgenti motivi di ansia e timore, che neppure il suo delirio poteva scacciarmi di mente, nel corso della notte decisi di far ritorno a Londra, con la prima diligenza del mattino, percorrendo a piedi circa un miglio e facendomi raggiungere fuori città. Perciò, alle 6 del mattino, mi chinai su di lei e sfiorai con le mie le sue labbra, proprio mentre esse dicevano senza interrompersi per il contatto: «Prendi la penna e scrivi sotto il mio nome: la perdono».